Ci saranno due performance, entrambe incentrate sul tema del movimento delle mani ed entrambe incentrate sulla contaminazione tra le arti, quindi musica, danza, poesia, sound design. I primi artisti sono Wissalco Baby e Roberto Paci Dalò, che ci presenteranno un lavoro che si chiama Lemi, I miei sogni. È una performance flusso in cui il materiale dei ricordi e il materiale onirico si intrecciano e si confondono. E dico la cosa del movimento delle mani perché tutto questo sarà condotto con la chironomia, con il movimento delle mani che darà il ritmo al suono e alla voce di Wissal, che parlerà in Derija, che è il suo dialetto. L'altra performance è quella di Elena Iani, è una performance di danza che si chiama Incomunicabili 2.0, che parte appunto dalla LIS, dalla lingua dei segni italiana e quindi anche in questo caso dal movimento delle mani e dall'incontro tra questo movimento, il suono e la vibrazione. In questi giorni stiamo facendo la residenza di entrambi i progetti, una residenza artistica che come sempre si svolge ad Asse nei giorni precedenti alla performance, e l'attività bioelettrica del corpo di Elena, della danzatrice, viene registrata dal sound designer Leonardo Giardi proprio per produrre come materia espressiva della musica. Insomma, un appuntamento davvero da non perdere. Vogliamo ricordare, come sempre, un po' di info utili, quindi dove si trova Collagene, come è possibile accedere, insomma, alla serata, ecco. Collagene si trova ad AS, dispositivo arti sperimentali, che è in via del Porto 11/2 a Bologna, è nella zona della manifattura delle arti, vicino alla stazione. E l'ingresso è completamente gratuito, c'è da sottoscrivere la tessera ARCI, perché siamo un circolo ARCI, la si può fare all'ingresso, si può fare anche il pretesseramento sull'app. Ecco, una data importante per Collagene, oltre che per questo secondo appuntamento del 17 novembre, è anche la data di domani, il 16 novembre, in cui termina la call aperta a tutte e a tutti per partecipare ai prossimi progetti di Collagene. Com'è andata innanzitutto, anche se in realtà non è ancora finita perché c'è l'ultimo giorno? Sì, stiamo ricevendo tantissimi progetti in questi giorni e proprio anche in queste ore. Si sa che molti artisti e molte artiste sono deadliner, quindi c'è effettivamente ancora tempo, c'è tempo fino a domani sera e stiamo ricevendo proposte di tutti i tipi, ecco, anche in questo caso è una rassegna multidisciplinare, quindi siamo aperte a progetti di musica, di danza, di teatro, di poesia, di videoarte, installazioni, performance. Ecco, qualsiasi cosa, non ci sono limiti né geografici né anagrafici, e c'è un form da compilare che trovate nella nostra link in bio di Instagram. Avete già fatto una piccola selezione o aspettate che arrivi, insomma, tutto quanto il materiale? Sapete già come siamo sarà? Stiamo ancora aspettando tutto il materiale, ci prendiamo circa un mese per fare la selezione. La selezione è fatta dal direttivo di DAS, quindi siamo proprio noi con le nostre competenze trasversali in ambiti artistici diversi a ricevere le proposte e a valutarle tutti insieme e costruire la programmazione insieme. Per ora sono tante, ma chissà quante altre ne arriveranno. Bene Eugenia, io ti ringrazio e ricordo ancora una volta l'appuntamento del 17 novembre con il secondo evento di Collagene e insomma in bocca al lupo anche per la call che sta per finire. Credi, grazie mille e ci vediamo presto.